si può fare. Cronache da un paese migliore. E buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Eccoci qua di nuovo in diretta. Potete cominciare a chiamare, a prenotare il vostro intervento all'800 24 00 24 per commentare quello che sentite. Adesso continueremo a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi ai nostri approfondimenti, le buone notizie, ma anche per raccontarci, come ogni weekend, che cosa ha reso più bella la vostra settimana. I racconti più belli vincono, mettiamo in palio i biglietti e il catalogo per le mostre dei Pre-Raffaelliti a Torino e di Andy Warhol a Roma. Riprendiamo a guardare sui giornali di oggi. Naturalmente ci sono molti aspetti che riguardano le inchieste, soprattutto quella sul lavori per il Mose, e anche un po' di interviste, un po' di dettagli. Intanto titola per esempio Libero: guerra delle tangenti nel Partito Democratico, all'ombra delle inchieste della magistratura si consuma la lotta senza esclusione di colpi tra i renziani e la vecchia guardia del partito, accusata di far parte del sistema corrotto. Per quanto riguarda il PD, l'uomo più coinvolto è il sindaco della città, Orsoni, ma anche Zoggia, accusato di, non è accusato, che avrebbe preso 65 mila euro di finanziamento dagli imprenditori legati al consorzio che faceva i lavori a Venezia. Ma leggiamo come ne parla il Corriere, e la vicenda che riguarda anche Cantone, il commissario anticorruzione, per ora senza poteri. Evidentemente c'è stato un fraintendimento tra Cantone e il governo. Lo dicano anche in pubblico quali devono essere questi poteri speciali per l'Expo. Così il senatore ex PM di Venezia Felice Casson del Partito Democratico sintetizza la partita in corso tra il premier Renzi e il magistrato napoletano Cantone, che è ormai commissario anticorruzione anche per l'Expo da circa un mese, ma senza poteri. La cassetta degli attrezzi, scrive il Corriere, assicurano i ministri Boschi e Orlando, gli verrà fornita per decreto probabilmente venerdì 13 giugno, ma Cantone non ha ancora una squadra e dunque attende di conoscere i nomi dei quattro componenti dell'autorità anticorruzione. Cantone, che è tornato a precisare anche ieri il suo pensiero, tra l'altro proprio da noi a Radio 24, e ha detto così: non sono deluso, sono entusiasta delle cose che voglio fare, però voglio poterle fare, non mi sono dimesso dalla magistratura, il mio posto in Cassazione è sempre disponibile. Cioè, insomma, Cantone dice: se mi date poteri per fare questa benedetta lotta alla corruzione, ok, altrimenti torno a fare il magistrato di Cassazione, e tanti saluti. Sempre sul Corriere l'intervista a Deborah Serracchiani, vice segretario del PD, che dice: con la nuova guardia non ci saranno più ambiguità. Che succede? Non intendo dividerci tra noi e loro, dice la Serracchiani, ma è chiaro che sulla legalità il nostro nuovo PD non fa sconti a nessuno. Cosa vuol dire, Serracchiani? Che il PD della ditta, quella passata, era troppo tenero coi corrotti? Voglio dire che in politica il ricambio generazionale è fattore di cambiamento. Noi abbiamo immediatamente preso posizioni chiare, come si è visto sul caso di Franco Antonio Genovese. Ma di quale PD sta parlando, però, domanda l'intervistatore a Deborah Serracchiani. Quello che incontrava in Senato Primo Greganti, poi coinvolto nell'inchiesta Expo. Risposta della Serracchiani, notevole, dice: Lorenzo Guerrini e io, che siamo i vice segretari nazionali, non sappiamo nemmeno che faccia abbia Greganti, lo abbiamo visto solo in fotografia, e questo tanto per dire, insomma. Invece chiaramente la vecchia guardia del PD, Greganti, lo conosceva, e come. Sempre dal Corriere i particolari, anzi andiamo a vedere l'intervista su Repubblica a Baita, che è l'imprenditore che ha dato la stura a tutto questo, cioè l'imprenditore che ha con le sue rivelazioni ha aperto questa inchiesta. È proprio così: noi costruttori abbiamo dato al consorzio 100 milioni l'anno per 10-11 anni, tangenti e consulenze, contratti a tutti, se si mettono in fila fanno 1 miliardo di euro, e non sono serviti al progetto Mose, solo a rafforzare il consorzio Venezia Nuova nella città, nei rapporti con la politica locale romana. settimana. Si è buttato via tanto denaro, si è perso tempo e il Mose è ancora un cantiere. Dice Pier Giorgio Baita, non so se si chiuderà entro il 2016. Lui è l'ex presidente della Mantovani S.P.A., capofila del consorzio Venezia Nuova, arrestato con l'accusa di appunto di queste false fatturazioni per creare fondi neri e girare i soldi ai partiti che gli garantivano i lavori. Ha patteggiato la condanna ad un anno e 10 mesi e quindi ha aperto questa inchiesta. Ora, a parte il fatto che un anno e 10 mesi sembrano pochi, sembra una pena non molto alta, perché va bene che ha patteggiato, quindi con le sue dichiarazioni questo ex questo imprenditore sta dando una mano a scoprire il calderone, il polverone, insomma il pentolone con dentro tutte le tangenti che sono state pagate. Però un anno e 10 mesi sono oggettivamente pochi per, se si fa il conto del danno che viene causato ai cittadini, all'erario, forse anche il danno a questa opera, chissà come è stata costruita, anche se Baita dice che il Mose è un'opera eccezionale, è soltanto il consorzio che era marcio. Leggiamo ancora, attorno al Mose si è sviluppata la piovra del consorzio, lo costituivano le aziende, ma le aziende lo subivano, decideva tutto il presidente Mazzacurati, il fabbisogno per la politica e soprattutto le assunzioni dei figli importanti. Il consorzio si è riempito di persone che giustificavano la loro presenza con nessuna utilità, una barcata di persone, tanto che a un certo punto lo stesso Mazzacurati ha dovuto far scendere il numero degli assunti a 270. Il problema non è il Mose, il consorzio Nuova Venezia. Però ci sono anche altri particolari. Per esempio, sentite qua, 3 quadri del pittore veneziano Canaletto e uno del Tintoretto, risalenti al XVIII secolo e al XVI secolo. Valore stimato, se ne sarà confermata l'autenticità, tra i 20 e i 40 milioni di euro. Avete capito bene. I finanzieri che si sono presentati giovedì mattina con mandato di perquisizione nella casa romana di Alessandro Mazzi, vicepresidente del benedetto consorzio Venezia Nuova, sono rimasti senza parole di fronte a quello che si è presentato ai loro occhi. 4 quadri del Tintoretto e del Canaletto, valore stimato 40 milioni di euro, che questo signore evidentemente aveva trovato il modo di accaparrarsi. Così come si sono stupiti i finanzieri di trovare 200.000 euro in contanti umidi e sporchi di terra, probabilmente perché conservati per settimane in una buca in una delle abitazioni di quello che è stato il loro ex comandante in seconda, il generale della Guardia di Finanza in pensione, Emilio Spaziante, quello che si preoccupava di far sì che non scattassero i controlli. Ce n'è anche per Orsoni, però, il sindaco di Venezia, che da avvocato in una causa tra il 99 e il 2000 chiese e ottenne per conto di alcuni clienti che il TAR del Veneto sospendesse il decreto con il quale i due ministri dell'ambiente, Ronchi e Melandri dei beni culturali dichiaravano che il Mose non aveva superato la valutazione di impatto ambientale, una bocciatura netta. Il TAR però diede ragione all'avvocato Orsoni e ai suoi clienti e i lavori si sono fatti. Poi adesso scopriamo che Orsoni pigliava le mazzette dalla realizzazione di questi lavori. Che dire, ci sarebbero anche altri aspetti. Per esempio c'è un'intervista ad un docente, Alessandro Vannucci, Alberto Vannucci, scusate, intervistato dal Fatto Quotidiano, dirige un master di analisi e prevenzione della corruzione all'Università di Pisa e lui dice in sostanza: la corruzione in Italia non è più reato. Si pensi che in Italia i colletti bianchi sono lo 0,4% dei detenuti, a fronte di una media europea 10 volte superiore, quindi sono il 4% i colletti bianchi tra i detenuti in Europa, in Italia solo lo 0,4%. E pensate che se ci concentriamo solo sulle tangenti, i dati sono ancora più incredibili, dice il professor Vannucci. In tutta Italia i condannati che si trovano in carcere per corruzione, sapete quanti sono? Sono meno di 10. Cioè in Italia ci sono meno di 10 persone in carcere per corruzione. Ma l'Italia ha un record di inchieste e di scandali e di corrotti, però abbiamo solo 10 persone in galera ed è una cosa sostanzialmente da non crederci. Ancora qualcosa dai giornali. Intanto il Sole 24 Ore, che oltre a ricordarci l'ingorgo della Tasi, quindi se volete sapere tutto sulla scadenza il 16 giugno per i comuni che hanno fissato l'aliquota il 16 ottobre, ma forse il 16 di dicembre per tutti quegli altri, andate sul Sole 24 Ore di oggi, che poi si occupa anche dell'apertura del convegno ai giovani imprenditori a Santa Margherita Ligure. Fiducia a Renzi, ma a tempo, rispettare gli impegni, e poi fuori chi corrompe o delocalizza low cost. Il neopresidente Marco Gai, che ha voluto mettere le imprese in primissima fila come esempio di innovazione e responsabilità etica. Fuori da Confindustria ha detto ieri Gai chi corrompe, rilanciando il messaggio, tra l'altro già lanciato anche dal presidente di Confindustria Giorgio Squinzi all'assemblea del 29 maggio. Però ha aggiunto Gai: esce dall'associazione anche chi non accetta che il legittimo profitto sia indissolubilmente legato al territorio. Quindi no a quella delocalizzazione di imprese che producono utili qui in Italia e vanno alla ricerca di manodopera sottopagata. Poi però ha aggiunto Gai che la delocalizzazione non può essere l'unica opzione data dal paese a chi rischia di chiudere perdendo tutto. Ci impegniamo a non lasciare l'Italia, chi se n'è andato si impegna a tornare, ma lo Stato sia il nostro alleato. Ancora prima di chiudere, il giornale di oggi che riporta una notizia incredibile, era già circolata nei mesi scorsi, adesso c'è una ricerca scientifica che lo confermerebbe. Scienziati a quattro zampe, questo cane ci salverà dal cancro. I pastori tedeschi addestrati riconoscono al fiuto il 97% dei tumori alla prostata. È la rivelazione abbastanza incredibile, confermata in questi giorni dal 21esimo congresso nazionale dell'Associazione Urologi Italiani, che riporta uno studio fatto all'Istituto Clinico Humanitas qua di Milano, secondo il quale certi cani addestrati allo scopo sono in grado di diagnosticare con una precisione del 97% i tumori maligni alla prostata, annusando semplicemente l'urina dei pazienti. È una notizia, una buona notizia, è una notizia incredibile, quindi insomma, da un certo punto di vista il giornale prosegue la sua campagna sugli animali, però questa volta la notizia è un po' più importante di quelle che riguardano Dudu e Company. 800 24 00 24, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo, parleremo del dato di settimana incredibile della disoccupazione al 13%, al 46% tra i giovani, ma noi, programma di buone notizie, si può fare cronaca da un paese migliore, ci siamo incaricati di trovare la parte buona della medaglia, e se si va a guardare bene una speranza per l'occupazione in Italia c'è, solo che bisogna cercarla in campagna. Tra poco si può fare cronache da un paese migliore. La sera mi ritiro dai campi, che dolor, la schiena fuoco e fiamme, le gambe sono in panne, mi mangio il minestrone, mi bevo un bottiglione e poi mi appoggio al tavolo, scusate se mi appisolo, e sogno la fanciulla che domani sposerò. C'è il ragazzo di campagna, se volete chiamarci per raccontarci che cosa ha reso più bella la vostra settimana, per allietarci, siamo qui, si vincono i biglietti per la mostra dei Raffaelliti a Torino e di Andy Warhol a Roma. Sicuramente ha reso più bella la settimana il rapporto presentato dalla Coldiretti, lavorare e vivere green in Italia, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente voluta dalle Nazioni Unite. In questo rapporto la Coldiretti dice che la spesa per i consumi sostenibili è salita del 65% rispetto al 2007, cioè sta quasi raddoppiando in soli 7 anni, e ci sono 100.000 posti di lavoro in agricoltura, è un'opportunità che è tutta da sfruttare. E insomma, fa piacere nella settimana nella quale invece la disoccupazione tra i giovani è salita al 46% secondo l'Istat. Salutiamo allora con grande piacere, sulle note di questo ragazzo di campagna, Roberto Moncalvo, presidente della Coldiretti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Anche lei, se vogliamo, un ragazzo di campagna. Direi di sì, 33 anni e quindi è agricoltore, quindi ragazzo di campagna. Tra l'altro, Moncalvo, anche lei con una scelta, diciamo, alle spalle, perché lei è ingegnere, sì. Stava per intraprendere una carriera diversa e poi a un certo punto ha fatto un cambio di passo. Sì, ha fatto un cambio di passo che rifarei certamente, ritornando all'azienda agricola e rivoluzionandola, e oggi insomma è il centro della mia occupazione per me e per mia sorella e per i miei familiari. Ecco, una cosa che però si dice, adesso poi parliamo di questi dati importanti che avete voi della Coldiretti e che ci danno un po' di fiducia e di speranza per quanto riguarda la possibilità di occupazione in questa green economy, però una cosa che si dice spesso è un'obiezione, no? Ma chi ha la terra perché ce l'ha dalla famiglia, come è capitato anche a lei, certo dice può scegliere tra fare l'ingegnere o portare avanti l'azienda di famiglia, ma chi invece non ha questa possibilità, queste opportunità di occupazione in campagna, come sfruttarle? Beh, allora, certamente il problema dell'accesso alla terra è un problema, anche perché siamo in un paese in cui negli ultimi 20 anni abbiamo consumato moltissimo suolo e quindi il tema dell'accesso alla terra è un tema importante, però oggi l'agricoltura è un settore che può dare opportunità non solo nell'aprire un'impresa agricola, ma anche nel trovare occasioni di lavoro nelle imprese agricole che già esistono, e questo è sicuramente un tema che amplia le possibilità. Peraltro il boom di iscrizioni negli istituti agrari che si verifica, sì, verso il prossimo anno scolastico, un più 12%, riporta dall'inizio del dopoguerra gli istituti agrari ad essere il primo istituto in termini di aumento delle iscrizioni. Questo è un segnale di come i giovani cercano di capire insomma come funziona il mondo agricolo e di provare a cercare occupazione. Siamo all'inizio dell'estate, sì, e nelle prossime settimane oltre 200.000 giovani entreranno nelle imprese agricole italiane grazie allo strumento dei voucher, dei buoni lavoro voluto da Coldiretti, per provare a fare esperienza nella raccolta dell'ortofrutta, certo, nella vendemmia, insomma nell'attività agricola. Ecco, però proprio forse anche i vostri dati, adesso ce li dirà, è un po' anche l'identikit che ne viene fuori spesso, no? Cioè nuove occupazioni, non soltanto produzione ma anche fattorie didattiche, agriturismi, proprio cose che si prestano, diciamo, alla piccola imprenditoria e quindi anche alla possibilità per ognuno di avere un appezzamento di terra e farci sopra un proprio progetto. Per favorire questo accesso alla terra, regioni come la Toscana o la Liguria o anche il Lazio stanno lavorando sulle cosiddette banche della terra, la possibilità cioè di fornire insomma canoni agevolati o addirittura gratuiti le terre abbandonate, pubbliche e private. È una cosa su cui Coldiretti sta lavorando con le istituzioni, si può incrementare questo processo di favorire l'accesso alla terra? Ma certamente questa è una possibilità, insomma, non dobbiamo vendere illusioni, ma sicuramente è una possibilità, perché in ogni regione esistono certamente terre abbandonate, vanno prima di tutto censite e poi messe a disposizione. Questo è un percorso che stanno facendo alcune regioni e che lo stesso Stato a livello italiano insomma già in più occasioni ha dichiarato di voler fare, quindi è certamente una possibilità. Non dobbiamo, ripeto, vendere illusioni, l'agricoltura è un settore che può dare grandi opportunità, sì. Il grande aspetto interessante è che si può collaborare con le imprese agricole che esistono e con le tante imprese agricole giovani che sono nate negli ultimi anni. In questi anni di crisi sono nate oltre 50.000 imprese giovani che stanno lavorando proprio nella multifunzionalità, quindi in questa possibilità dell'agricoltura di andare oltre la produzione ma di guardare alla trasformazione, all'agriturismo, alla fattoria didattica, all'agricoltura sociale, e qui c'è spazio evidentemente per giovani che hanno una loro formazione, una loro volontà di lavorare in agricoltura, che possono trovare possibilità di collaborazione interessanti. Voglio salutare anche Paolo Guglielmi, che è fondatore di Agricolonie in provincia di Ancona, nelle campagne di Monte San Vito. Lui è un ex broker, anche lui uno che ha fatto un cambio di passo. Buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti. Una figura presentata dai giovani della Coldiretti che insomma ogni anno cerca di dare spazio, anche di far capire la direzione in cui stiamo andando. Lei Paolo come ha iniziato? Cioè, perché anche in questo caso ha cambiato vita, ha cambiato attività dedicandosi solo successivamente alla campagna. Sì, assolutamente. Io diciamo, parto da studi statistici, quindi economici, e questo devo dire che in questa mia seconda vita è sicuramente molto importante, perché oggi comunque l'azienda agricola va gestita come una qualsiasi altra impresa. Però sentivo che quello che facevo non era più il mio futuro, non era più quello che volevo, e quindi avendo la fortuna di avere questa terra dei miei nonni, che però era momentaneamente abbandonata, diciamo, ho deciso di cambiare vita. E adesso sono ben felice di quello, della scelta che ho fatto 5 anni fa. Sono felice perché sto realizzando i miei desideri, e soprattutto sto trovando chi sono veramente, aiutando il mio territorio, aiutando delle persone che hanno delle difficoltà ad inserirsi nella società, e soprattutto facendo scoprire a bambini, ma anche ad adulti, qual è il vero significato della campagna e quanti valori può trasmettere, soprattutto in un periodo di crisi sia economica ma anche proprio culturale che stiamo vivendo nel mondo. Probabilmente ci vorranno forse 20 anni prima che i bambini di adesso, che hanno la possibilità di riavvicinarsi alla campagna, di riscoprirla anche grazie a fattorie didattiche e alle agricolonie come quella di Paolo Guglielmi a Monte San Vito, ci vorranno anni prima che crescano e possano appunto poi contribuire a questo processo di ritorno alla campagna. Però speriamo che questo prima o poi accada. Paolo, però mi incuriosisce sapere come reagiscono i bambini quando magari dalle città vengono portati nella sua agricolonia. Cioè, viene il tutto visto come una cosa esotica, veramente esotica, o cioè una cosa lontana dalla realtà, oppure qualcuno di questi bambini diventerà un futuro agricoltore, secondo lei? Allora, sicuramente viene vista inizialmente, appena arrivano, in maniera molto entusiastica, ma direi quasi con paura, nel senso, noi ad esempio facciamo del concime del compost biologico con i vermi. Io faccio toccare questo compost, lo faccio odorare, e poi gli dico in un secondo momento cos'è, e loro, quando gli dico cos'è, rimangono un attimino basiti. Questo è, insomma, un esempio per dire che tipo di distacco c'è oggi tra i bambini, ma secondo me i bambini non sono altro che la proiezione degli adulti. Certo. Dei genitori. Io lavoro sui bambini cercando di colpire le persone adulte, perché poi sono loro, mi viene in mente ad esempio anche le mense scolastiche, si sta facendo anche un gran lavoro con la Coldiretti per cercare di far capire alle città, alle scuole, quanto sia importante avere dei prodotti a chilometro zero, magari bio, all'interno delle mense. E io ripeto, è un lavoro culturale, i bambini oggi lo vedono in maniera un pochino distaccata all'inizio, ma poi dopo pieni di entusiasmo, pieni di gioia per questo mondo che comunque a loro è distante, anche se magari hanno i nonni che lavorano in campagna, però per il tempo che magari i genitori non possono mettere nel seguire, sì, questi bambini, o forse avevano, non la vivono, non o la forse vivono, avevano i nonni, o addirittura adesso si comincia a parlare dei bisnonni. Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti. Allora, abbiamo detto più 65% di spesa sostenibile dal 2007 in Italia. Le chiedo in quali settori, e poi cosa manca perché si creino davvero questi 100.000 posti di lavoro in agricoltura, cosa bisognerebbe fare? Allora, intanto questo più 65% è un dato importante ed è anche una prima risposta al grande lavoro culturale quotidiano che stanno facendo le imprese agricole, a partire dalle fattorie didattiche come quella di Paolo, insomma. E quindi questo è un dato importante. Se noi pensiamo che questo aumento del 65% riguarda proprio gli alimenti bio, che riguarda i prodotti a denominazione d'origine, e soprattutto che riguarda la vendita diretta a chilometro zero nei mercati di campagna amica, nei punti vendita, questi sono dati certamente importanti, che sono una prima risposta concreta a questo grande lavoro che si sta facendo. Il futuro passa attraverso certamente la conclusione di quel percorso fondamentale per la tutela del Made in Italy in Italia e nel mondo, perché gli italiani, così come i cittadini stranieri, cercano il vero Made in Italy, e noi dobbiamo dare la possibilità loro di trovare quello vero, insomma, e non quello falso o contraffatto. Quindi questa è una grande percorso, e poi continuare con quelle azioni che possono aiutare a creare cultura e a creare consuetudine al consumo di prodotti a chilometro zero, a partire ad esempio dalla ristorazione collettiva, quindi messe scolastiche, quindi ospedali, che possono diventare grandi luoghi in cui si fa, attraverso l'azione del pasto quotidiano, cultura e conoscenza dei prodotti del territorio. E va bene, allora grazie intanto a Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, grazie anche a Paolo Guglielmi, 800 24 00 24 se volete raccontarci le vostre esperienze di lavoro in campagna, oppure se credete o non credete che l'agricoltura ci possa salvare da questa crisi occupazionale che stiamo vivendo in questi anni. A tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Abbiamo Antonio che ci chiama da Taranto. Buongiorno Antonio. No. Buongiorno. Allora, io volevo prima fare una premessa. Sì. Per quanto riguarda, siete una radio fantastica, perché quando sono in campagna, quando non, come so, attualmente sono disoccupato, ma ho un piccolo pezzetto di terreno, e quando sono in campagna mi tenete tantissima compagnia. E poi un'altra premessa è, siete, come dire, una radio fantastica. Vabbè, perché come avere basta con le premesse, però Antonio, Wikipedia sempre acceso. Andiamo al sodo, andiamo al sodo. Al sodo, allora sono contento perché mia figlia avanti ieri ha avuto un posto di lavoro presso il Policlinico di Pavia, si è stabilizzata, ha trovato casa, ha avuto un posto di lavoro a tempo determinato, ma comunque sempre un posto di lavoro. Insomma, succede, lei ci garantisce che qualche volta succede, molto bene. Succede senza raccomandazioni e senza niente. In bocca al lupo allora Antonio. Volevo fare un'altra premessa. Siccome stavate parlando di campagna, io mi occupo un po', c'ho un pezzettino di campagna e faccio uva da tavola. E l'altro giorno si parlava di prestiti, si è parlato di tutti i prestiti, fuorché dei prestiti per quanto riguarda la campagna. Era un altro programma probabilmente, Antonio. Adesso però non apriamo il capitolo, diciamo, di servizi finanziari agli agricoltori, perché non era questo che volevamo, di cui volevamo parlare. Invece vogliamo complimentarci anche con un'altra iniziativa, perché va bene la tradizione, va bene la riscoperta della campagna, però in Italia si fa anche impresa innovativa. E allora vogliamo parlare, proprio nella settimana con i dati negativissimi della disoccupazione, con chi crea nuovo lavoro. Paolo Carminati, responsabile comunicazione di Ennova, premiata come la migliore startup italiana proprio qualche giorno fa. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Il premio, insomma, il riconoscimento dall'Associazione degli Incubatori Universitari P&I Cube proprio a voi. Più che una startup, un'azienda vera e propria, 400 dipendenti, un fatturato cresciuto in pochi anni. Di cosa vi occupate? L'idea nasce dal bisogno che io credo abbiamo tutti di semplificarci la vita, insomma, e semplificarla attraverso la tecnologia. Noi ci occupiamo di fare in modo che l'utilizzo dello smartphone, l'assistenza tecnica, la configurazione di questo oggetto che fa sempre più parte della nostra vita ed è, ahimè, abbastanza ostico in alcuni momenti, sia semplificabile. Quindi siamo partiti da una soluzione tecnologica che permette, attraverso un accesso da remoto con tutte le sicurezze del caso, la privacy del caso, il nostro specialista di entrare all'interno del dispositivo e configurarlo, perché molto spesso è un problema di configurazione più che di un guasto reale per cui si chiede la sostituzione. Siamo partiti da questa idea e ovviamente, oltre alla parte tecnologica, e qui appunto mi riallaccio al tema della crescita importante, abbiamo iniziato a fare questo tipo di supporto specialistico da remoto. Vabbè, sarebbe complesso entrare nel, diciamo, nei meandri di quello che fa, no. A quest'ora del mattino. Però quello che, insomma, intanto complimenti ancora, siete la dimostrazione che si può fare, che si può creare innovazione e occupazione in Italia in questi anni. Invece di dirci che cosa secondo voi bisognerebbe cambiare nel sistema italiano, mi dice che cosa vi ha agevolato, che cosa ha funzionato, cioè è proprio il valore aggiunto su cui vi siete appoggiati, tutto italiano? Assolutamente questa presenza all'interno del Politecnico. Noi siamo nati nell'incubatore I3P del Politecnico di Torino, che è una realtà veramente molto molto interessante, quindi queste aziende start-up messe proprio al centro del Politecnico usufruiscono ovviamente di tutta una serie di competenze come dire, innovative importantissime. Tutti quindi insomma è un caso in cui l'università, l'istituzione universitaria, gli incubatori di cui sentiamo parlare molto spesso, a volte non capiamo bene come vanno a finire queste cose, funziona, ha funzionato, voi siete la dimostrazione. Ancora grazie e complimenti per quello che fate. Grazie a voi. Sì, eccolo qua, giusto per salutarlo. Siamo in chiusura, 800 24 0024. Non so se abbiamo 30 secondi per sentire l'ascoltatore che è in linea. No, non ce l'abbiamo più. Ci salutiamo, ci sentiamo tra poco. Giornale radio. E poi torneremo. Avrete notato che non c'è Carlo Gabardini, ma è una sorpresa, una suspense, lo sentiremo più avanti. Assente giustificato perché è in un posto a fare la testimonial. Dico solo questo, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Lego. Feel how the planets become one. Protect the drum to this and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle. In the old way, like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. Questo la la la la di Shakira, una delle canzoni tra l'altro scelte per questi mondiali di calcio che si svolgeranno in Brasile, iniziano, ve lo ricordo, il 12 giugno con la partita inaugurale Brasile-Croazia, e questa era la canzone che ci segnalava Piera Belelli, la vostra canzone, il vostro Si può fare di oggi. 800 24 00 24, però riprendiamo a sentire gli interventi degli ascoltatori. Abbiamo Andrea che ci chiama dalla provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Prego. Allora, prima sentendo diciamo la rassegna stampa, uno non può sicuramente non arrabbiarsi per quello che sente, quello che succede. E secondo me quello che si può fare è risolvere il problema senza parlare tanto di pene più lunghe, meno lunghe. Sì. Si può semplicemente rimettere queste persone che hanno rubato la società, rubato lo Stato, rimetterle in società, ma senza tutto quello che hanno accumulato in questi anni rubando. E quindi far vedere com'è la vita vera, cercare un lavoro, cercare di fare la spesa ogni giorno con poco. Questo capisco che dal punto di vista, diciamo così, di una rivincita anche morale suonerebbe bene, però le pene non bisogna dimenticarle, perché il vero disincentivo è che se uno commette un reato sa che poi finisce in galera, insomma, o no? Certamente, ma voglio dire che quello che fanno è va contro ogni logica di rispetto, per chi poi la vita reale la vive ogni giorno. Va bene. Anzi, visto che prima ci siamo parlato di agricoltura, direi che, visto che anch'io mi occupo di agricoltura, credo che un po' di sano lavoro nei campi fisico gli farebbe molto bene. Un po' di lavori forzati non sarebbe male, non sarebbe male. Andrea dalla provincia di Treviso, grazie. Tutto sommato non ci sarebbe. Pensate che in Germania i detenuti lavorano, molte carceri sono delle vere e proprie imprese, e certo i detenuti non è che si mettono in tasca uno stipendio pieno, lavorano, fanno guadagnare anche lo Stato, quantomeno il carcere insomma non è un costo sociale per nessuno. Quindi quello che dice Andrea non era una cosa del tutto peregrina. Intanto Carlo Gabardini non c'è, ve l'ho già preannunciato, qualcuno l'ha visto, qualcuno sa dov'è. Io un'idea ce l'ho, un po' di suspense, e credo che verso fine puntata scopriremo dove è andato, dove si trova. Dalle parti di Roma, credo, per un evento così che dovrebbe svolgersi. Non so, se qualcuno ne sa qualcosa ci chiami o ci scriva. Sandra da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Allora, io volevo dire una cosa, intanto vi ascolto sempre, sono sintonizzata col Sole 24 Ore, da quando è nata, se solo quella a casa mia esiste. Continui così, Sandra, grazie. Sì, volevo dire una cosa molto importante, perché attraverso le campagne amiche, eccetera, anch'io cerco di fare del mio meglio per andare a conoscere questi produttori, anche sacrificando del tempo, e perché do un'importanza incredibile a quello che è proprio l'agricoltura, no? Ma poi una cosa, ho fatto un piccolo orticello a casa mia, ho un nipotino di 4 anni, per cui sono preoccupatissima di quello che gli vado a dare da mangiare, quindi la mia gioia della settimana scorsa è stato quando il mio nipotino di 4 anni ha raccolto personalmente i primi tre pomodori maturi di una pianta coltivata biologicamente. E sicuramente suo nipote crescerà con un'attenzione. Io glielo insegno, perché i genitori giovani, moderni di oggi, quelli che hanno la fortuna di lavorare, non hanno tempo, capisce, sì, per le cose fresche. A questo servono i nonni, Sandra, bravissima. A questo servono i nonni, esattamente, a colmare queste lacune. Farinetti e tutti quelli che vanno in campagna. Va bene, grazie. Prego, buongiorno. Giampaolo da Ferrara, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo dire, nella mia doppia veste di dietista, quindi mi occupo nella mia quotidianità di alimentazione e sono anche docente nella scuola, quindi ho partecipato e ho, diciamo, attivato diversi progetti, e che purtroppo sono sempre ad occhio, cioè nel senso, oggi si fa, domani no, e quindi tutto ciò che è stato seminato viene poi perso. Questo qui è anche un appello verso la Coldiretti, che dovrebbe mirare meglio i propri progetti, perché io nelle scuole vedo la loro piramide alimentare, proprio non se ne parla più, ed è un vero peccato, anche perché le fattorie didattiche e quant'altro. Guardi, Giampaolo, c'è una proposta legata ad Expo, portata avanti dal ministro Martina, che è quella di insegnare, no, l'educazione alimentare nelle scuole. E secondo me non ci vorrebbe neanche un ministro o un Expo per arrivare a questo. Ci si potrebbe pensare, e credo che già molti insegnanti lo facciano, però insomma potrebbe essere un passo in più. Prego. Poveretti lo fanno con quello che sanno, cioè io sono sfortunato e fortunato, perché io sono docente di terza fascia, cioè nel senso che insegno dalla italiana, matematica, sì, e cose di questo genere, quindi quando proprio il docente che sostituisco mi lascia carta bianca, allora mi porti là e finalmente riesco a dire quello che mi piace, quello che faccio nella mia quotidianità. Però quello che manca è riuscire a essere incisivi nella teoria con la pratica, cioè io nelle mense vedo che arriva di tutto, ma di filiera corta e chilometri zero in me è molto molto molto molto poco, quindi riuscire ad entrare nei comuni che fanno, cioè lei dice, appalto, oltre a fare lezioni in classe, bisogna poi girare la testa all'ora di pranzo e vedere cosa c'è sui tavoli dei bambini. Bravissimo, sì. Perché per esempio io che ruoto in una zona di mare, sì, cioè che c'entra l'Halibut, per dire, no, alla faccia del chilometro zero, sì, oppure che ne so, sicuramente c'è molto da fare su questo fronte qua. Alcune città, alcuni comuni, alcune scuole singole forse stanno facendo delle iniziative, noi ne parliamo spesso, mense a chilometro zero, addirittura mense che nascono dentro le scuole. Domani ne faremo un caso a Roma, la mensa a metri zero, però ha ragione Giampaolo, sono ancora casi isolati, c'è molto da fare. Adesso ci fermiamo, 800 24 00 24, facciamo il traffico, poi torniamo con una proposta, la proposta su come utilizzare il sito archeologico di Pestum. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of patrol. And it's on, girl. Don't say no. Questa Mary You Bruno Mars, perché la proposta su come utilizzare diversamente per dare slancio e rilanciare il turismo nel sito archeologico di Pestum è proprio quella di celebrarvi dei matrimoni, una proposta che però ha suscitato critiche e perplessità, come è normale che sia, si può fare, cerca sempre di muoversi sull'onda del cambiamento e di insomma siamo attratti da queste proposte a volte strane, a volte originali, a volte che possono avere una loro efficacia. Ne parliamo con colui che ha avuto questa idea, Luciano Farro, buongiorno. Buongiorno a lei. Presidente della Commissione Consigliare Statuto Regionale del Comune di Capaccio Pestum. Lei è un consigliere comunale di Capaccio Pestum? Sì. Buongiorno, una bellissima giornata di augurio ai radioascoltatori di Radio 24. Bellissima giornata. Bella giornata, l'asta di sole, cioè, lei a Pestum. Ci sta augurando una bella giornata oppure lì a Pestum è una bella giornata? Tutte e due. È una bellissima giornata pure qua. Tra l'altro noi abbiamo 15 km di litorale, per cui insomma pure mare. Ci altro che sito archeologico, oggi si va al mare. Senta, sì. No, ma incuriosiva la presidente della commissione consiliare statuto regionale. Statuto e regolamento, è una commissione che all'interno del nostro consiglio comunale sono il presidente e sono il cerimoniere del comune di Capaccio Pezzo. Ecco, ed ecco perché, essendo il cerimoniere, ha detto, sì. Perché non facciamo celebrare i matrimoni dentro il sito archeologico? Tra l'altro, lei dice recuperando un'antica tradizione, perché insomma, quello era luogo di feste. Sì. In effetti adesso mi è conosciuto il mondo, ma è opportuno fare un poco, far capire ai radioascoltatori che è una location meravigliosa dove ci sono 3 templi che sono i migliori al mondo come conservazione e quant'altro, oltre alla città antica che ha tante altre cose. Allora, in pratica il tempio più antico era proprio dedicato ad Era. Era la regina degli dei, moglie di Zeus, ed era proprio la dea dei matrimoni, della famiglia, della fedeltà coniugale e del parto. Per cui io ho avuto questa idea, ho pensato perché non utilizzare i templi, utilizzare sempre un termine. Però perché non sfruttare la possibilità di dare al mondo intero di venire a Pestum, venire nel più antico dei templi e avere la possibilità di una sorta di poesia, di magia, di poter unirsi civilmente. Già la vediamo un po' questa magia, questa poesia nelle sue parole, però di fare matrimoni civili naturalmente. Civile ovviamente, civile, perché credo che quello concordatario... Credo che la Chiesa, no, assolutamente civili, che poi noi sappiamo che in effetti per gli effetti civili sono quelli, con un matrimonio concordatario, i matrimoni celebrati in Chiesa poi hanno effetti civili, quindi siamo lì. Ecco, ma qualcuno si è opposto a questa sua proposta? Cioè, perché in fondo non mi sembra una cosa così, così stralunata. Quando io ho fatto la proposta è successo questo. Prima che la proposta venisse letta, perché è stata fatta per iscritto, venisse portata all'attenzione del sindaco, il dottor Italo Vusa, meraviglioso sindaco che siamo molto molto vicini in tutti i sensi. Siete fratelli? In tutti i sensi, politicamente parlando. Nel senso che sono un consigliere di maggioranza, era un messaggio politico il suo, come dire, siamo vicini, quindi chiede l'appoggio del sindaco. Non poteva essere diversamente. Allora, in pratica, forse era giunta una telefonata e ad una domanda come se fosse un matrimonio nei templi, una mercificazione, un matrimonio a pagamento, ha detto no, non sono d'accordo, punto. Ma in questo senso, poi ne abbiamo parlato ovviamente perché ha avuto una eco molto molto forte. Ma gli ha motivato, scusi, Farro, mi scusi, gli ha motivato il sindaco perché non è d'accordo? Perché è chiaro che uno può dire ma il rischio è quello di rovinare l'ambiente. Sì, sono contro il matrimonio a pagamento, ha detto, tutto qua. Però ripeto, perché non l'aveva però detto, potrebbe essere lei, credo che voglia dire, che non soltanto si potrebbe far pagare, ma si potrebbe anche incentivare gente da fuori Pestum a venire anche se non si paga. Quindi non c'è incasso per il comune, ma c'è indotto per la città. Sì, questo pensava lei. C'era questa doppia lettura in definitiva. Poi verrà sviluppata meglio sicuramente. Attenzione, però noi dobbiamo fare un'altra premessa, perché quello che ha detto anche il sindaco di Capaccio, è ovvio che occorre fare un protocollo d'intesa con la sovrintendenza. Qua parliamo di beni sottoposti a, insomma, ad interesse storico-culturale, dove la sovrintendenza assolutamente occorre mettersi d'accordo. La direttrice del museo, la dottoressa Cipriani, la sovrintendente, la dottoressa Campanelli, io non li ho sentiti ancora onestamente, questo lo devo dire. L'assessore al turismo, il dottor Enzo Di Lucia, pure lui ha dichiarato sui giornali che è d'accordo con questa proposta. Ora occorre soltanto un attimino mettersi a tavolino, perché l'entusiasmo è tanto. Ma perché l'ho fatta? Perché io ho avuto pure notizia dal comune, dai funzionari del comune, che spesso gente ha chiesto se poteva. Se poteva. Ma è normale, qua a Milano per esempio ci si sposava, credo, forse ancora nella sala del Tiepolo, in centro a Milano, ai giardini di Porta Venezia, una sala importante. Poi qualcuno disse ma non bisogna far celebrare i matrimoni lì perché gli affreschi vengono rovinati. Ma io credo credo che i siti archeologici, i beni monumentali e i nostri, insomma, i siti del patrimonio artistico vadano vissuti, e se lo facessero all'estero troveremmo qualcuno che direbbe: hai visto come fanno lì, lo valorizzano, lo utilizzano. Invece lei ha fatto questa proposta e per ora nessuno, tutti a dire che sono contrari. Io invece spero che la sua proposta, Farro, vada avanti e che si rifacciano i matrimoni al sito archeologico di Pestum, naturalmente nel modo più opportuno, rispettando il sito. Però, dottore, ecco, i templi di Pestum, sì, peraltro, ogni anno vengono utilizzati per spettacoli anche di musica leggera. Certo. Quindi ci fanno i concerti perché non ci si può fare un matrimonio. Hai ragione. Rovinare cosa? Anzi, qua ritorniamo, come dire, nella sacralità di ciò che era in antichità. E poi io avrei anche ancora un'altra idea. Purtroppo io sono fatto così nel parlare. Ho pensato pure che, siccome spesso era raffigurato con la melagrana è il simbolo della fertilità. Sì. Io voglio che Pestum diventi anche un luogo dove si producono melograni, può sembrare poesia, tutto quello che vuole. Io ricordo anni fa, qui a Pestum, un luogo dove cosa, Farro? Un luogo dove le donne che hanno problemi di fertilità possano recarsi, perché abbiamo anche la pietra della fertilità, tantissime. Sì, ma recarsi a fare cosa? Cioè a invocare la dea Era? Vabbè, però questa mi sembra una cosa un po' più... Le posso dire che c'è gente che purtroppo ricorre a maghe per queste cose. Io invece voglio offrire, la possiamo definire poesia o quant'altro. Guardi, Farro, secondo me era meglio se si fermava prima coi matrimoni, perché questa è una cosa che può funzionare. Il resto sembra che si vada in un piano un po' più delicato. Per far arrivare maggiore presenze turistiche anche a visitare un luogo. Sì, però non è che si può fare di tutto pur di sviluppare il turismo. Pure come idea della fertilità. Sì, ho capito, però Farro, non è che si può fare di tutto pur di sviluppare il turismo promettendo risoluzioni al problema della fertilità con la dea Era. Io capisco che lei sia affascinato, e anche noi lo siamo, di questa divinità e al valore mitologico, però insomma va bene per i matrimoni, in bocca al lupo, speriamo che si faccia. Se si farà, ce lo torni in trasmissione a raccontarcelo, mi raccomando. Sicuramente con altri comunicati, sicuramente lei sarà informatissimo. Saremo i primi, grazie. Prego, buona giornata di buona nuovo. Buona giornata a lei, buongiorno. Questa era la proposta che viene da questo consigliere comunale di Capaccio Pestum di utilizzare il sito per celebrarvi dei matrimoni. È stata una settimana pesante per gli amministratori, insomma, e per i cittadini, visto quello che è emerso con lo scandalo e l'inchiesta sui lavori per il Mose. Noi volevamo rifarci la bocca non tanto con la storia di Pestum, quanto con la festa dei comuni virtuosi, l'associazione dei comuni virtuosi, festa che si svolge oggi e domani in provincia di Reggio Emilia. Ne parliamo con il coordinatore dell'associazione, Marco Boschini, che è un nostro caro amico. Ciao Marco. Ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Noi vi seguiamo sempre perché, insomma, una ne fate, cento ne pensate. I comuni virtuosi che stanno attenti ai rifiuti, all'energia, a utilizzare bene l'energia, al risparmio, insomma, a tante cose. Tra l'altro in questa occasione, cioè, ci sarà un piccolo spazio anche per Radio 24 e per Noi di Si Può Fare, perché avete avuto l'idea sbagliata, secondo me, di darci un premio. Sì, oggi pomeriggio alle 5 festeggiamo la seconda edizione del giornalista virtuoso dell'anno. Ogni anno cerchiamo di selezionare quelle trasmissioni, quei giornalisti che pur continuando a denunciare le cose che non funzionano provano invece a raccontare le cose belle, positive. Lo dicevi tu all'inizio, è stata una settimana drammatica per chi fa politica, per chi si occupa delle istituzioni, quindi abbiamo bisogno invece anche di buone notizie, e la vostra trasmissione da questo punto di vista ne è un esempio, ma la radio in generale, la Radio 24 in generale. Grazie Marco. E invece, a proposito di questo appuntamento, la festa si svolge ogni anno, una delle tante iniziative, ricordo la scuola di altra amministrazione e tutti gli appuntamenti che fate ogni anno riunendovi tra amministratori che appunto cercano davvero di tenere i bilanci in regola, però non sacrificando i servizi dei comuni, anzi facendo cose straordinarie. E questa festa cos'ha all'ordine del giorno? Certo, il titolo, noi l'abbiamo chiamata Viva l'Italia Viva, è un'iniziativa che facciamo insieme al Fatto Quotidiano, Slow Food, Emergency e Banca Etica. Abbiamo cercato di portare nel programma di questi due giorni alcune delle più belle esperienze che in questi 10 anni abbiamo portato avanti come comuni virtuosi. Quindi l'invito a tutte le persone che ci stanno ascoltando è di venire ad ascoltare e a toccare con mano l'Italia che funziona, che c'è, anche se viene raccontata male, non in modo saltuario, però c'è, funziona, e io credo che ci siano, al di là dei personaggi che verranno, dalla Gabanelli a Travaglio, anche a politici di fama nazionale, quello che per noi è importante sono i sindaci e gli amministratori che tutti i giorni fanno le cose e cambiano le cose del basso, e saranno assolutamente protagonisti in questi 2 giorni di festa. Bene, bene, in bocca al lupo. Quanti comuni adesso siete riusciti a, diciamo, a certificare con nell'ingresso con la vostra associazione? Che chiaramente non è il Vangelo, non è che quello che dite voi è la verità assoluta, però insomma il fatto di avere queste 5 stelle, tra l'altro prima ancora del Movimento 5 Stelle, ma insomma queste 5 stelle sulla sostenibilità dei comuni è una garanzia, no? Quanti siete adesso? Siamo 74, domani abbiamo il direttivo, ne entreranno altri 4, quindi stiamo crescendo. Tra l'altro stiamo facendo un lavoro, portando avanti un lavoro molto serio col Politecnico di Milano, che presenteremo l'anno prossimo per il decennale, sì, che introdurrà una certificazione, perché appunto non abbiamo la verità in tasca, ma vogliamo che le cose avvicinarci. Si facciano bene. Esatto. Va bene, grazie Marco Boschini. L'appuntamento è in provincia di Reggio Emilia, al Circolo Arci, Taneto, frazione di Gattatico, provincia di Reggio Emilia, circolo fuori orario per questi 2 giorni di festa dei comuni virtuosi. Salvatore dalla provincia di Roma all'800 24 00 24, buongiorno. Buongiorno a voi, io sono un vostro ascoltatore assiduo quando posso in macchina, e stavo sentendo questa trasmissione per quanto riguarda i siti archeologici e non solo dell'Italia. Sì. Per me è un peccato, promette che io sono siciliano di origine ma vivo in provincia di Roma e l'Italia l'ho girata tutta. Per me è un peccato nascondere o non tenere aperto al pubblico la ricchezza che abbiamo in Italia, che ci affida a tutto il mondo. Stavo sentendo poc'anzi, sì, di quel politico che di Pessum, che i siti devono essere rovinati o nascosti o chiusi al pubblico. Basti pensare al Teatro Greco di Taormina, che ancora oggi dopo 2000 anni ha un'acustica che e funziona straordinariamente, certo, e certo. Funziona solo con un panorama tra l'Etna e il Golfo di Catania che è meraviglioso, ma questo è uno dei tantissimi siti. Io penso che ogni comune la propria ricchezza che ha dovrebbe sfruttarla economicamente, appunto aprendolo a qualunque cosa, mettendo dei lavoratori socialmente utili che fanno, certo, da guardiani, in modo che c'ha già il business plan, lei Salvatore c'ha già un bel business plan in mente. E tra l'altro, grazie intanto Salvatore, devo dire che l'annuncio del ministro dei beni culturali Franceschini qualche giorno fa, venerdì scorso, che ha detto che gli incassi dei musei, dei siti archeologici non saranno più filtrati dal Ministero dell'Economia ma andranno direttamente tramite il suo ministero ai siti, è una buona notizia in questo senso, cioè spingerà tutti ad avere una gestione anche economica più efficiente, almeno credo. 800 24 0024, facciamo una pausa, torniamo tra un attimo e vi anticipo che avremo con noi la giornalista che premiamo come inviata, giornalista la definisco io così, ma noi cercavamo un inviato, Inviati Cerca sia l'iniziativa con cui vi abbiamo tenuto compagnia per 2 mesi a caccia di buone notizie in tanti ambiti, e tra poco scopriremo qual è la nostra inviata. Si può fare cronache da un paese migliore. adesso è il momento di Inviati Cercasi. Per due mesi vi abbiamo chiesto di andare a caccia di buone notizie per noi nei campi più diversi: agricoltura, le ricordo, lavoro, volontariato, scuole, legalità, cultura, ambiente, spreco, e abbiamo chiuso naturalmente con le vacanze. Abbiamo trovato tante belle notizie, abbiamo conosciuto tanti inviati, e adesso abbiamo scelto un'inviata. C'è stato un ballottaggio, c'era molto piaciuta anche la storia che riguardava la scuola, le buone notizie che riguardavano il mondo della scuola con la rete di volontariato delle scuole di Modena. Però abbiamo deciso di premiare invece la buona notizia di ambiente che ci aveva portato Alice Bellincioni, che oggi è in studio con noi. Buongiorno. Ciao Alice. Ciao. La notizia era questa: un festival, Terraforma Festival, che tra l'altro si svolge proprio questo weekend, il 7, l'8 e il 9 di giugno a Milano, nel bosco di Villa Arconati, 4 ettari di bosco riqualificati proprio per l'occasione. Una piccola notizia che riguarda un piccolo evento, se vogliamo, però era gustoso anche per questo. Sì, certo. C'era la particolarità proprio di questo bosco riqualificato. Sì, sono 2 ettari che hanno riqualificato quest'anno. Sono 4 ettari il bosco, e loro vorrebbero ripetere il festival l'anno prossimo per riqualificare gli altri 2 ettari. E tu, appunto, portandoci questa notizia, ti eri candidata, avevamo fatto il racconto, ci era piaciuto anche il modo in cui ti eri posta, dicendo: a me piacerebbe occuparmi di questo, fare questo, certo. Quello che tu vorresti fare, la giornalista forse ambientale. Sì, sì. Che in realtà sto già più o meno facendo. Ma si riesce a sopravvivere di questo per ora? Beh, non molto, però. Non molto o per niente? No, per niente no, però in realtà faccio anche altro, perché in qualche modo bisogna... È giusto anche, come dire, portare a casa la pagnotta in qualche modo, e poi sì. Non si riesce però a vivere di questo, a guadagnare di questo, secondo te? Ma in realtà forse anche dipende dalla mia età, nel senso che io ho 23 anni, per cui sono all'inizio, giustamente, cioè un po' di gavetta ci vuole, credo, poi che non duri 15 anni. Speriamo di no, assolutamente. Però no, sì, appunto, per cui secondo me anche per una questione di inesperienza è giusto che uno imparando magari non subito riceva un compenso così troppo elevato quanto una persona che ha un'esperienza di 20 anni. La modestia, la timidezza è quasi modo, come dire, titubante con il quale Alice dice: non pagatemi troppo, non vi preoccupate per me, devo ancora crescere. Beh, insomma, è giusto anche vederla così. Poi naturalmente arriverà il momento in cui invece non potrà essere sempre così, ecco. No, questo, certo, te lo auguriamo. Speriamo che prima... Ma che cos'altro fa invece? Ma in realtà ho fatto un'esperienza in un ufficio stampa per guardare come si sta dall'altra parte. E penso che sia utile, francamente, vedere entrambe le prospettive. No, e di ambiente, scrivo su una rivista di ambiente, però sì. saltuariamente come freelance. E poi niente, vabbè. E come mai, quando noi abbiamo appunto proposto questo con il nostro gioco, il nostro contest Inviati Cercasi, una buona notizia di ambiente ti è venuta in mente, tra le tante cose che avrai avuto sotto mano, di proporci questa di questo festival Terraforma? Ma in realtà è stata una pura casualità, nel senso che io stavo ascoltando la vostra trasmissione e mi è arrivata un'email da un amico con il link dell'evento. L'ho visto come un segno del destino e ho detto: vabbè, porto questa. Perfetto. Mi è venuta. È così andata. Sì, è così andata. Avevo la radio accesa e mi è arrivata in quel momento una mail. Quindi, se vogliamo, neanche una selezione così accurata, insomma. È stato il caso. Vuol dire che dal tuo tavolo passano sempre delle buone notizie, delle belle notizie. Quindi questo è un messaggio a chi sta cercando qualche buona giornalista che si occupi di ambiente in particolare. E fra l'altro questo è un tema, inutile dirlo, che è un po' il tema del presente. Si dice che è il tema del futuro. Abbiamo aperto la trasmissione parlando con il presidente della Coldiretti, Moncalvo, sulle possibilità, le potenzialità di occupazione. 100.000 posti di lavoro nella green economy, secondo lui, sono a portata di mano. Quindi la differenza, magari, ecco, questo te lo chiedo anche come commento da giovane giornalista che si occupa di ambiente, che magari in altri posti del mondo non si parla più della green economy come di un'opportunità, ma come di una realtà già presente. In Italia invece si rimanda un po' sempre con questo concetto di è un'opportunità, sì, però sì, arriverà. No. Beh, però in realtà io sta già cambiando secondo te? Ma io penso che in realtà sia molto più concreta di quello che le persone pensino. Il problema è proprio la percezione che si ha, che quando se ne parla sembra sempre che sia una cosa molto di nicchia. In realtà però in Italia è una realtà concreta, anzi guardando le ultime statistiche non siamo messi così male. No, è vero. Ancora, se vuoi pensarci, se sei preparata, c'è qualche appuntamento di questo festival di cui ci avevi parlato in questi giorni a Villa Arconati che vuoi sottolineare in particolare? Beh, sicuramente tutto il festival, perché sì, da un punto di vista musicale no, io non me ne intendo, ma mi dicono che sia molto buono. Okay. E poi ci sono tanti workshop anche di ambiente, di musica, per cui è pieno di attività. È cominciato ieri, ma anche tutto oggi e domani, per cui... Perfetto. Perfetto, resta con noi Alice, è la nostra inviata, facciamo qualche ascoltatore, poi dopo ci dovremmo forse anche ricongiungere con il nostro terzo socio qua della situazione, il nostro Carlo Gabardini, se lo troviamo su Spans. Stefano da Genova, buongiorno. Buongiorno, allora io da Genova volevo riportare di un'iniziativa della quale sono a conoscenza, sì, che è attuata dal comune. Perché ci sono molte persone alle quali piacerebbe avere un orto, ho sentito altri ascoltatori parlare di questo argomento prima, però non hanno il terreno, non hanno lo spazio. Certo. Allora, a Genova da anni c'è un'iniziativa per cui il comune cede in concessione, però con la finalità di realizzarci un orto, dei terreni magari abbandonati che comunque il comune non riesce a sfruttare. Ecco, c'è questa iniziativa per cui il comune li cede, se non sbaglio, anche gratuitamente, sì, chiaramente non la proprietà ma soltanto l'usufrutto, a cittadini o gruppi di cittadini che vogliano, che si organizzano, fanno domanda e poi dimostrano ovviamente di realizzare un orto anche in terreni che si trovano in città. E questa iniziativa mi sembrava bellissima, io non ne conosco il dettaglio perché ne parlavano dei miei colleghi già una decina di anni fa. Sì, ma sono molte le città, Bologna per esempio è sicuramente in prima linea su questo versante qua, già da molti anni, ma ce ne sono, insomma, in quasi tutte le città il comune mette a disposizione dei piccoli appezzamenti, a volte per i pensionati, adesso più recentemente anche per i giovani, a canoni, come diceva lei, agevolati o addirittura gratuitamente. Spesso magari non si tratta proprio, come dire, di pezzi di terreni particolarmente ambiti, perché magari sono ai margini delle strade, no? O a volte li vediamo, Alice, non so se nella tua esperienza. Sì, io quelli di Bologna li ho visitati, tra l'altro, gli orti comunali, sì. Quelli del CAB, del Centro Agroalimentare e del Comune di Bologna. Sì, sì. E spesso sono proprio questi pezzettini di terra che si vedono anche un po' dalle strade, per cui sì, sono sì, un sì, po'... lì ci si passa proprio con l'autobus. Sì. È in una zona non troppo... Non bellissima. No, non bellissima. Per cui non è difficile per il comune, diciamo, tra virgolette, anche liberarsene, o quantomeno... Beh, forse è un modo per riqualificarla, farla frequentare, pure, sì, credo, anche socialmente... Sì. Renderla più sicura. E poi sembra, abbiamo parlato anche la settimana scorsa con un progetto a Roma di riutilizzo della frutta urbana, che insomma anche gli agenti inquinanti, le PM10, le polveri, si depositano sopra le foglie a volte, basta lavare questa frutta e pare che sia buonissima, che non entra in qualche modo nel... Sì, speriamo. Fidiamoci. Fidiamoci. Tu sei informata su questo? Cioè hai qualche notizia su questo? Ma non lo so, io... Di prima mano, no? No, in realtà no. Non posso darvi un'opinione. È un terreno che bisogna approfondire però, Perché tutti si chiedono, sì va bene, gli orti vicino alla tangenziale di Bologna, ma poi la roba che viene coltivata sopra sarà buona? Sembrerebbe di sì. Va bene, ringraziamo Stefano da Genova, facciamo una pausa, torniamo tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. No more pretending. Allora, noi la musica l'abbiamo messa, io vedo scritto qua sul mio monitor Carlo Gabardini, per il resto non so nulla. No, scherzo, in realtà qualcosa so. Ciao Carlo, ci sei? Ciao Alessio, certo che ci sono. Ci manchi, che però, bello. Ci sei mancato, non l'ho ancora detto, però ci sei molto mancato oggi. Voi mi mancate moltissimo, saluto tutti gli ascoltatori. Moltissimo, ho sentito la mia musica, diciamo, quindi sono anche emozionato. Ma senti, noi ti manchiamo, però credo che avrai modo di compensare questa mancanza, perché sei in mezzo a un milione di persone. Assolutamente sì. Dove sei? sono a Roma al Gay Pride. Oggi farò, sono il testimonial del ventennale del Gay Pride. E sono, ne sono molto emozionato e molto molto orgoglioso, devo dire. Insomma, è un testimone importante quello che ti hanno dato, insomma, perché a parte l'edizione del ventennale, e poi esatto. Tutto è nato quasi per caso con una lettera a Repubblica, poi il video La marmellata e la Nutella, nato tra l'altro qua il sabato mattina facendo le nostre chiacchiere, si può fare, e poi è esploso tutto. Assolutamente accompagnato in questa cosa, ecco, diciamo. E oggi c'è la manifestazione principale, o sbaglio? Cosa succede oggi a Roma? C'è la manifestazione, alle 15.30 c'è il concentramento in Piazza della Repubblica e poi si partirà con la parata. Io apro la parata assieme al sindaco Marino, siamo molto contenti che ci sia il sindaco Marino e ovviamente Andrea Maccarone, che è invece il portavoce del coordinamento del Roma Pride, oltre che presidente del circolo Mario Mieli. Siamo molto contenti anche perché, per dare anche una notizia, per la prima volta il sindaco di New York ha partecipato al Pride settimana scorsa, quindi siamo molto contenti che Bill de Blasio ha partecipato al Pride newyorkese e Marino aprirà il Pride, cioè, insieme a me, mi siamo un po' esagerati, insieme a tutti, diciamo, insieme a tutti, però, insieme anche a te, però è abbastanza un inedito anche per Roma, il primo cittadino, insomma il sindaco che partecipa proprio al Gay Pride, o no? Sì, e infatti si è molto contenti di questa cosa. Beh, ricordiamo che il sindaco precedente era Alemanno, diciamo, non faceva il Pride, ecco. No. No, vabbè. Comunque, io non so se è un modo per cacciarmi a letto. Ieri te mi hanno detto: vai a dormire che domani devi aprire la parata assieme al sindaco, quindi insomma cerca di fare bella figura, perché col sindaco ci sono tutte le telecamere puntate lì, le foto. Sono agitatissimo, anche perché mi hanno spiegato che è la prima volta che il testimonial è un maschio gay dichiarato, perché solitamente erano sempre donne, madrine, comunque diciamo vicino alla causa, ma è diverso nel momento che c'è uno in prima persona. Tutto cambia e tu, Carlo, sei in mezzo al cambiamento. Sai cosa ti voglio dire, però? Ti voglio riportare un po' nel clima di Si può fare, perché qua in studio con noi c'è Alice Bellincioni, non so se tu questo nome te lo ricorderai, è una delle nostre inviate Cercasi, l'abbiamo premiata, certo. Questo lo sai perché l'abbiamo scelta insieme ed è qua con noi. Salutatevi, ciao. Questo momento così, ciao. Questo teatrino. Ma direi che è perfetto, ha preso il mio posto, come diciamo avevamo detto. Infatti la notizia è questa, basta, Carlo, tu adesso resti a Roma e Alice resta qua con noi. Posso rimanere qui? Direi che posso rimanere qui a questo punto al Pride e cedo il mio posto. Tra l'altro io da inviato di Si può fare, ieri mi informavo di questioni, diciamo, vicine invece alla nostra trasmissione e ho scoperto che dai 15 carri che ci saranno al Pride verranno sparati solamente coriandoli fatti con carta riciclata o con ecosostenibile. Questo mi è sembrato una bella cosa. Poi ovviamente durante la notte ero a uno splendido tavolo e si discuteva di questa questione. Siccome il trucco delle drag queen, io non lo sapevo, viene fissato in gran parte con la lacca, ci si è detti: ma la lacca non è ecosostenibile, inquina tantissimo. E quindi ci si chiedeva che tipo di lacca usare per... Avete trovato una soluzione? Non ancora. Entro le 15.30 sicuramente ci state lavorando, va bene. E con questo, Carlo, io non so, ti saluterei, se vuoi restare ancora un po' con noi al telefono, sono 3 minuti, chiudiamo la puntata salutando Alice e sentendo un ascoltatore, e comunque in bocca al lupo per questa tua esperienza da testimonial, tu in quanto tale, e poi insomma per chi partecipa, il Gay Pride è un momento comunque di gioia, di festa, dove si vanno a significare anche ovviamente i diritti e tutta la battaglia giustissima, sacrosanta, di omosessuali, però tutti quelli, diciamo, che per la battaglia LGBT sono morti. Ricordo anche solamente una cosa che mi sembra buona in termini di spending review, che nell'Euro Pride 2011 la testimonial, il personaggio era Lady Gaga e oggi invece sono io, diciamo che siamo assolutamente in spending review. Mi sembra un ottimo modo per salutarci, Carlo. E comunque complimenti, perché come inviato stai diventando bravo, hai trovato già 2 o 3 notizie interessanti. ieri rompevo le scatole a tutti, veramente. Dicevo, io devo assolutamente, facciamo l'inviato di Radio 24. Non fatemi rimanere a mani vuote, benissimo, bravo. Esatto. Allora, sentiamo l'ascoltatore, abbiamo ancora un minuto e poi salutiamo anche Alice. Giovanni da Ferrara, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Ascolti, io intervengo perché ho sentito parlare nella vostra trasmissione di prodotti a chilometri zero. Il discorso mi interessa, sì, direttamente, perché sono un commerciante al dettaglio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Ferrara. E vorrei portare all'attenzione ciò che avviene nel mondo sotto traccia dell'agroalimentare. Sì. Molti prodotti a chilometri zero in realtà vengono spacciati per prodotti direttamente nel campo locale degli agricoltori, e in realtà questi assieme a me comprano nei mercati generali la frutta, la verdura, la portano nelle loro rivendite con tanto di iscrizione a chilometri zero e la rivendono come... Ma questa però si chiama truffa o no? Ma lei come la, sì, la definirebbe? Sì, ma questo non è un messaggio molto, come dire, tranquillizzante, però è giusto anche dirlo, denunciarle queste frodi, queste truffe, queste, anche sul biologico c'è tutta una polemica sulle certificazioni, su quello che si può davvero certificare e anche sul fatto che poi c'è chi aggira queste cose. Giovanni, grazie per avercelo ricordato, però non vorrei chiudere in tono così mesto. Alice Bellincioni, aspirante giornalista ambientale, vincitrice del nostro gioco Inviati Cercasi. Devo darvi una buona notizia. Attendi, tirarci sul morale, sentite cosa ha detto. Beh, a proposito del mercato a chilometro zero, tornando al Festival Terraforma, ci sarà un mercato a chilometro zero di prodotti non solo bio, ma anche bio in questi giorni, quindi loro sono però effettivamente degli agricoltori della zona che vanno direttamente a vendere, quindi ci si può fidare. Uno li guarda in faccia. Va bene, speriamo. Grazie ad Alice Bellincioni, che vince un soggiorno responsabile offerto da EquoTube. Andate sul sito di EquoTube, bellissimo, ci sono tante offerte. Grazie Carlo, un abbraccio a te e a tutti quelli che partecipano al Gay Pride. Grazie ad Andrea Piana, a Giorgio De Luca e a Pietro Lacorte in regia. Noi ci sentiamo domani mattina alle 8:30. Buona giornata Alessio Maurizi, ciao!